più il mondo politico reale si estromette da qualsiasi forma di partecipazione, si veda fra l'altro il fatto che quello stesso finanziamento pubblico dei partiti contro cui si è pronunciata la maggioranza del popolo italiano tramite regolare referendum nel 93, l'attuale regime irridente e impunito, l'attuale regime continua a intascarselo. Vabbè, più veniamo estromessi, dicevo, e più fioriscono le farse in cui il popolo, ovviamente rappresentato nella sua moderna quintessenza di televisività, viene chiamato a votare su tutto e su tutti. Così capita di poter votare sulle facce da disegnare, sulle nuove banconote o sulla coppia di fidanzati preferita. La versione maschile plurale di Raffaella Carrà, tal Frizzi, fa spettacolo di una coppia di fidanzati contro l'altra, pronti, non dico a vendersi la nonna, ma pronti a vendersi la famiglia intera più gli incauti amici pur di assurgere per un sabato sera agli onori della ribalta, guadagnandosi uno dei tanti guidardoni distribuiti a piene mani da chi se ne frega, perché intanto non sono i suoi. Noi chiamati a frugare nella biancheria di questi fidanzati, a commuoverci dei maleodoranti cadaveri scovati nel loro armadio, potremmo poi riscattarci del nostro passivo voyeurismo votando, lo sa Dio in base a che, quella coppia per la vita che dia almeno una minima garanzia per arrivare unita, dico, fino alla fine delle trasmissioni. Si rifà, al cospetto di Frizzi si presenta un fidanzato milanese, vigile urbano, con tutte le carte in regola televisivamente, tranne una. È disposto a baciarsi e abbracciarsi la sua fidanzata in pubblico, a giurarle eterno amore a comando come un topolino pavloviano, è disposto a sacrificare dignità proprie di chiunque, sembra perfino credere all'astrologo di turno. Sta insomma al gioco e fa capire di poter stare a qualsiasi gioco, ma c'è un ma televisivamente preoccupante. Ma mentre sta per parlare e fra un concetto e l'altro, tira fuori la lingua e si elargisce potenti autoleccate fino agli angoli più remoti della bocca. Per il regista è un inferno. Come se ne accorge, tenta di saltarlo via, di scegliere altre immagini, ma tant'è, costui deve parlare, il gioco è questo, e ogni tanto alla sua faccia occorre tornare. Non si può sempre sentire la voce di uno e al contempo, che so, vedere soltanto la faccia di Frizzi che mima attenzione sopraccigliata, partecipazione pelosa e stupori da oratorio. La generosa umettazione delle labbra ovviamente ha un'origine ben precisa. Lo stress relativo al dover parlare in pubblico provoca il disseccamento delle fauci e delle labbra. La lingua è chiamata a ripristinare l'umidità perduta. Dagli e dagli in taluni può diventare un tratto caratteristico a prescindere dalle difficoltà in cui poi realmente si trovano. L'altro giorno sono in coda alla cassa di un supermercato. Davanti a me ci sono quattro persone. Ad un dato momento qualcuno provvede a recitare una commediola che rompe la monotonia della situazione. La signora davanti a me, ancora giovane e pimpante, si agita. Guarda e riguarda ostentatamente nel proprio carrello, sposta un pacchetto qui, ne tocca uno là. Controlla lo svolgimento della fila, constata che non si avanza un granché e che non tocca ancora a lei, e si rigira verso di me. Tira fuori un belletto di lingua appoggiandola sul labbro superiore e se ne va di gran carriera, lasciando il carrello dov'è, incustodito lì davanti a me. Ha recitato la nota scena di chi si è dimenticato di qualcosa, di chi ne avverte comportamenti mentalmente gli altri, suoi possibili spettatori, e di chi, senza esserne consapevole, dichiara pubblicamente di accingersi al compito difficile di recuperare la merce dimenticata prima che tocchi a lei presentarsi alla cassa. La lingua fuori, in prima istanza, designava la sua rappresentazione della difficoltà. Il regista televisivo che le tenta tutte pur di evitare la ripresa di questo gesto non lo fa solo per pruriti di ordine estetico. È spinto a fare quasi un favore alla persona che lo compie, ma soprattutto a salvare la credibilità dello spettacolo. In effetti, la lingua fuori cela sempre un ripostiglio oscuro del pensiero. Il vigile urbano da Frizzi poteva soffrire del fatto di recitare davanti a un pubblico, ma la signora del supermercato teoricamente agiva in piena autonomia e nei limiti della privatezza consueta. Sotto quella lingua c'è una colpa. Non tanto allora la dimenticanza della merce, quanto piuttosto l'occupazione del posto nella fila, mantenuto nonostante di fatto la spesa non sia stata ultimata. C'è una colpa e c'è la volontà di occultarla. C'è un altro animale che tira spesso fuori la lingua, è il serpente. Dicono gli etologi che la sua estromissione veloce della lingua è un comportamento indirizzato all'orientamento e che soprattutto serve in funzione olfattiva per indagare sulle tracce di possibili prede. Mai fidarsene. Ci sarebbe un secondo motivo che induce a non fidarsi troppo della signora del supermercato e dei suoi numerosi simili. L'estromissione della lingua, dal punto di vista dell'evoluzione sociale, credo che venga a sostituire la vecchia manata aperta sulla fronte. Come a dire che stupido sono stato, come ammissione di colpa e dichiarazione pubblica in cerca di ammenda sociale. Questa manata in fin dei conti era un segnale onesto di sottomissione temperata, una soluzione che consentiva una convivenza passabile all'insegna della comprensione, diciamo, delle reciproche debolezze. Sostituirla o bypassarla, come dicono gli appassionati di metafore cardiologiche, bypassarla con una soluzione che mette in evidenza il compito difficile del colpevole di riparare alla propria colpa, è segno dell'ipocrisia dei tempi e della protervia dei loro protagonisti. The world's coming to an end, Mal.